Innanzitutto ci stupisce questa proposta, al momento ancora non è legge, però appunto è una proposta di legge che ci stupisce in quanto ormai dal 2017, quindi da un po' di anni, si è ormai delineato un assetto invece di tribunale specializzato. Nel 2017, nel febbraio 2017, con il decreto Minniti, vennero create le sezioni specializzate nei tribunali, proprio al fine, da una parte, di consentire la specializzazione dei giudici appartenenti a quella sezione in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Dall'altra, ovviamente, il fine era anche quello di avere dei giudici che si occupassero soltanto di quello e che quindi avessero un maggior tempo a disposizione per occuparsi specificamente di immigrazione. Il fatto di bypassare le sezioni specializzate e proporre di affidare la competenza in tema di convalide alle corti d'appello stupisce molto, in quanto nelle corti d'appello in questo momento non ci sono sezioni specializzate, cioè non ci sono giudici che si occupino soltanto di immigrazione, quindi questo andrà ad aggravare un ruolo vuol dire il numero di cause delle corti d'appello di cui già sono gravate, quindi andrà ad aumentare il ruolo, quindi ad aumentare il numero dei procedimenti a carico delle corti d'appello, e andrà a gravare in questo momento su giudici che non hanno la stessa specializzazione, quindi in ogni caso si fa un passo indietro rispetto a quanto c'era stato nel 2017 in tema di specializzazione e quindi di creazione delle sezioni specializzate. Queste settimane abbiamo visto, come dire, una tensione, un conflitto tra il governo e la magistratura, proprio perché l'ordinamento giuridico italiano, come dire, ha messo i bastoni fra le ruote alla volontà di politiche migratorie di questo governo, anche con il rinvio del decreto Paesi Sicuri alla Corte Europea. Quindi dobbiamo leggere in questa chiave questa volontà di trasferire le competenze? Probabilmente un ennesimo tentativo di provare a superare quanto accaduto nelle scorse settimane, perché la tempistica fa pensare questo. Per quanto mi riguarda, difficilmente si riuscirà in questo momento a superare la questione che è stata devoluta alla Corte di Giustizia, in quanto comunque e su questo mi permetto di dirle che non si tratta dell'ordinamento giuridico italiano, ma di quanto previsto dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, che in questo momento sembra essere in contrasto con quanto invece previsto dall'ordinamento nazionale. Quindi è una questione giuridica di ampio respiro, e per questo anche molti tribunali, ormai tanti, non solo il Tribunale di Roma, hanno devoluto la questione a un giudice superiore che è la Corte di Giustizia dell'Unione. Quindi probabilmente sì, è un tentativo di andare oltre quanto accaduto nelle scorse settimane. Ho i miei dubbi sul fatto che questo tentativo possa superare una questione che in realtà è una questione proprio giuridica dell'ordinamento italiano, in contrasto, o quantomeno che molti tribunali hanno ritenuto in contrasto con l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Quindi insomma il diritto internazionale è comunque mette dei paletti che riguardano le garanzie delle persone, i loro diritti. Sì, il diritto europeo sembra avere dei profili molto evidenti di contrasto con il diritto italiano, e sicuramente la norma europea è in questo momento più garantista della norma italiana.